1778. Cioccolata. Non è facil cosa il contentar chiunque, e meno che mai in questa materia, tanti e si vari essendo i gusti delle persone. Non avrei potuto supporre che un signore avesse notato in questo mio libro una lacuna che il tormentava. «Come si fa, diceva egli, a spender tante parole in lode del caffè e del tè e non rammentare il cibo degli dèi, la cioccolata, che è la mia passione, la mia bibita prediletta?» Dirò a quel signore che dapprima non ne avevo parlato, perché se avessi dovuto raccontarne la storia e le adulterazioni dei fabbricanti nel manipolarla, troppo mi sarei dilungato, e perché tutti, più o men bene, una cioccolata a bere la sanno fare. L'albero del cacao, Theobroma cacao, cresce naturalmente nell'America meridionale, in particolare al Messico, ove si utilizzano i suoi frutti come cibo e come bevanda da tempo immemorabile, e dove fu conosciuto dagli spagnuoli la prima volta che vi approdarono. Le due qualità più stimate sono il cacao Caracca e il marignone, che mescolate insieme nelle debite proporzioni danno una cioccolata migliore. Per garantirsi sulla qualità non c'è che sfuggire l'infimo prezzo e dare la preferenza ai fabbricanti più accreditati. Per una tazza abbondante non occorrono meno di grammi 60 di cioccolata sciolta in 2 decilitri di acqua, ma possono bastare grammi 50 se la preferite leggera e portare la dose fino a grammi 80 se la desiderate molto consistente. Gettatela a pezzetti nella cioccolatiera con l'acqua suddetta e quando comincia ad essere calda rimuovetela onde non si attacchi e si sciolga bene. Appena alzato il bollore ritiratela dal fuoco e per 5 minuti frullatela. Poi fate che alzi di nuovo il bollore e servitela. Come alimento nervoso eccita anch'essa l'intelligenza ed aumenta la sensibilità, ma ricca d'albumina e di grasso, burro di cacao, è molto nutritiva, esercita un'azione afrodisiaca e non è di tanto facile digestione, perciò si usa aromatizzarla con cannella o vaniglia. Chi ha lo stomaco da poterla tollerare, la cioccolata conviene, dice il professor Mantegazza, ai vecchi, ai giovani deboli e sparuti, alle persone prostrate da lunghe malattie e da abusi della vita. Per chi lavora assai col cervello e non può stancare il ventricolo di buon mattino con una succolenta colazione, il cacao offre un eccellente cibo mattutino.